la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:32 primi e 56 secondi. Vi saluto e vi ringrazio Oscar Giannino e vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Anche oggi la trasmissione nasce esattamente dalla lettera di un ascoltatore che ci propone, tra poco lo colleghiamo, il suo caso, e la domanda è se conoscete casi analoghi o sono capitati casi analoghi a qualcuno di voi o a voi in famiglia. Chiamateci per capire quanti sono quelli come il nostro ascoltatore che per il momento se la prendono in quel posto e quanti altri eventualmente hanno trovato invece una soluzione soddisfacente. Il tema, lo sentirete, è quello delle polizze dormienti, per così dire, cioè quelle incamerate dalle società di assicurazioni in caso di scomparsa di chi le aveva sottoscritte senza informare gli eredi. È un tema che ci trasciniamo dietro da un bel po' di anni. Le società di assicurazione ci hanno fatto un bel po' di soldi negli anni, ricorderemo, ci sono stati interventi di legge che però hanno aperto e chiuso le finestre temporali per rifare domanda e avere il giusto ristoro un po' a capocchia, per così dire. Quindi ci sono migliaia di italiani che in realtà hanno subito il danno. Lasciatemi dire, prima di presentare l'ospite, una cosa invece sul Consiglio dei Ministri che si tiene oggi nel tardo pomeriggio, alle 18:30 convocato, fino a un'ora fa non c'era ancora l'ordine del giorno, ma comunque due cose ci tenevo a dire. Mattarella, il Presidente della Repubblica, parlerà poco, anzi pochissimo, prende il tram a differenza degli elicotteri, ma al di là di tutto nel suo silenzio si fa sentire, perché avrete, credo, appreso dai giornali radio che oggi non c'è il decreto legge che il governo ha promesso da mesi e comunque a tambur battente nelle ultime settimane per l'assunzione. Si parlava di 150.000, poi 132.000, poi 120.000, 110.000, ma insomma per la regolarizzazione dei precari della scuola, per settimane strombazzata, e invece niente decreto, e non c'è, pare, neanche il decreto sulla banda larga di cui sono uscite le bozze nel fine settimana, poi smentite dal Ministero dell'Economia sabato pomeriggio. Però le bozze di un decreto c'erano perché le agenzie ne hanno scritto, i giornali le hanno commentate, io stesso, e però anche lì niente decreto per fissare un programma pluriennale con incentivi e non con espropri, come sembrava nel testo del decreto legge, per l'accelerazione della convergenza tra tutte le aziende televisive e di telecomunicazione per la banda larga. Due commentini. Io penso che sia giusto il freno contro l'eccesso di decreti legge di questo governo, perché c'è questo, ma di tutti i governi in questi anni. Devo dire che resto con la bocca amara io, e figuriamoci i precari della scuola, dopo settimane in cui questa promessa è stata sbandierata, perché io credo che la fiducia di un paese, quando è malmesso e malconcio, come è di fatto l'Italia, si costruisce anche evitando illusione di decreti legge che poi il Presidente della Repubblica in silenzio arriva e giustamente ti dice: no, tu il decreto legge l'avrai sbandierato, non lo puoi fare. Chiuso della parentesi, come mia personale considerazione di solidarietà a chi diciamo così ci ha creduto, e sono persone che già per anni o per decenni di governo in governo hanno visto accendersi e spegnersi le loro speranze, perché avevano messo tutto il loro corso di vita nella speranza di entrare in ruolo come insegnanti. Continuiamo a illuderli, a disilluderli? Non lo so. Io, che pure non sono sospettabile di amare i dipendenti pubblici, non me la prendo con loro, ma me la prendo con la politica che purtroppo ha fatto dell'Italia il paese al mondo avanzato con il più alto numero, centinaia di migliaia di precari. Siamo gli unici, grazie alle promesse della politica per far ricordare loro poi al momento delle elezioni chi votare, e continuiamo su questa strada. Speravo che non fosse così questa volta, forse ho sbagliato ancora. Allora, torniamo al nostro ospite, e vi ricordo il tema è quello delle polizze sottoscritte con le assicurazioni in caso di scomparsa di chi le aveva sottoscritte, soffiate, diciamo così, dalle assicurazioni senza avvisare gli eredi, e quindi bye bye soldini. Il nostro ascoltatore che ci sottopone il suo caso si chiama Roberto Coscetti. Io lo ringrazio di averci scritto e di essere qua per parlarne. Buon pomeriggio Roberto. Buonasera Giannino, grazie dello spazio. Allora, racconti un secondo come sono andate le cose che la riguardano. Beh sì, Allora, essendo, trattandosi di Polizia Vita, diciamo, la vicenda nasce appunto dalla morte di una persona che era mio padre nel 2008. Poi dal 2008 saltiamo al 2013, che è il momento in cui diciamo, a casa si è presentato il funzionario di una assicurazione, il quale appunto sta cercando l'assicurato, cioè mio padre, evidentemente per una visita commerciale, insomma. Quindi in quel momento lui si è reso conto che mio padre era defunto, mentre noi i familiari ci siamo resi conto che era in essere un'assicurazione. Di cui non sapevate nulla. Non sapevamo nulla perché mio padre, abbiamo ricostruito dopo, aveva versato il premio in un'unica soluzione alcuni anni prima. Quindi ci siamo, abbiamo predisposto i documenti per riscattare l'investimento, quando ci siamo accorti che invece era caduto in prescrizione, perché c'era appunto la legge 166 del 2008, il cosiddetto Salva l'Italia, il quale, nonostante sia stato emanato alcuni mesi dopo la morte di mio padre, però avendo effetto retroattivo... già, il classico effetto retroattivo, esatto, delle decretazioni. Esatto. E quindi in prescrizione. Ricordiamo che aveva il decreto di cui lei parla, cioè il 166 del 2008, aveva un effetto retroattivo al 2005 addirittura. Esatto, ecco. Sì, di 5 anni, sì. Insomma di alcuni anni. Sì. E poi nel 2012... invece è stato ripristinato il termine di prescrizione. Aspetti, il decreto in questione, cioè il 166 del 2008, per far capire a chi è a casa e non conosce la materia, abbatteva il periodo concesso per subentrare e per reincassare da parte degli eredi e lo riduceva a 2 anni. Questo era il punto di fondo. Ora, non 10. E quindi la materia diventa... Ho capito, 2 anni, come già un ascoltatore dice, ma che soffiate, non prendete con le assicurazioni, ci manda un sms un ascoltatore, perché c'erano 2 anni di tempo se la gente non si sveglia. La risposta a questo ascoltatore è che stiamo parlando però di migliaia di persone, di eredi, che erano ignare delle polizze vita sottoscritte dai familiari scomparsi. Ecco, quindi la questione diventa che in quel caso le assicurazioni, che invece sapevano delle polizze, voi direte, come fanno a sapere le assicurazioni se è morto il sottoscrittore? Ecco, in questo caso oltretutto c'è stato un pagamento unitario del premio, esatto, e quindi la cosa si complica ulteriormente. Ma in moltissimi altri casi invece erano polizze con i premi scadenzati nel tempo, nel corso, esatto, di vita, e quindi non è che l'assicurazione non lo sappia se scompare chi non versa più il premio. Ecco, chiusa parentesi, ma per informare meglio chi è a casa. E allora, a quel punto... Che, come vi siete trovati di fronte a questa cosa? Beh, niente, siamo trovati, diciamo, spiazzati, quindi naturalmente è andata in prescrizione. Poi il governo Monti nel 2012 ha riportato il termine a 10 anni, però non più retroattivamente, quindi rimane un buco temporale nel quale, insomma, siamo incappati. Poi stato previsto per alcuni risparmiatori la possibilità di ottenere rimborso, ma era un rimborso fatto a determinate condizioni per le quali noi non, insomma, la prescrizione doveva essere intervenuta entro il 31 dicembre 2009, non era il nostro caso, quindi continuiamo ad avere la prescrizione. Quindi ora, questa cosa che lei ha giustamente sintetizzato così, questa cosa che è avvenuta con un altro decreto legge, il decreto legge del 79 del 2012, riconoscendo il problema, spieghiamo a chi a casa, riconoscendo il problema di tanti che come voi ci sono rimasti in mezzo, stabiliva che un meccanismo di rimborso, quindi un'agevolazione perché c'era rimasto in mezzo, ma ne restringeva per motivi di finanza pubblica, ecco, i criteri, e questi criteri erano appunto che le polizze fossero state prescritte prima del 31 dicembre 2009, Dopodiché fossero scadute senza che i beneficiari avessero incassato i soldi in quei termini. Certo. E qui c'è una querela giuridica, perché per capire qual è il vero termine c'è chi ha detto poi che si partiva dal giorno della morte dell'assicurato, chi invece dalla data di scadenza dell'assicurazione, eccetera eccetera. Comunque la somma di questi due criteri era una limitazione molto molto forte, tanto è vero che si parlava di rimborsi di pochissimi milioni di euro complessivamente, tanto per essere chiari. Voi nei confronti della compagnia che cosa avete tentato? Allora, c'è in corso ancora un contenzioso. L'oggetto del contenzioso è l'obbligo che la compagnia ha di rendicontazione almeno annuale dell'investimento. La rendicontazione è un po' fumosa, nel senso che esiste l'obbligo, ma è un po' fumoso, sono un po' fumose le modalità con le quali questa rendicontazione, l'invio della rendicontazione debba essere espletato, perché non c'è un obbligo di una raccomandata, quindi si perde un po', diciamo, nella fumosità l'espletamento di questo obbligo, la dimostrazione di aver espletato l'obbligo di rendicontazione, che, ripeto, al momento, per quanto ci riguarda, è ancora in contenzioso, perché se riusciamo a dimostrare che loro non hanno espletato l'obbligo come riteniamo, anche perché mio padre abitava in un piccolo centro e quindi anche se avessero inviato, diciamo, la comunicazione a un indirizzo sbagliato, come sembra, sarebbe arrivata comunque, perché un centro di 2000 abitanti, lui abitava lì da tutta la vita, quindi era conosciutissimo. Allora, qui ci sono due problemi, per così dire. Il primo è quello, prima, perché cosa accadeva a queste polizze secondo la norma del 2008? Quelle che non venivano richieste dagli eredi entro i due anni venivano devolute a questo fondo dormienti. Il fondo dormienti nasce in teoria per il ristoro alle vittime delle frodi fiscali. Anno per anno, naturalmente, poi, come sempre, la legislazione contabile ordinaria pesca soldi di lì dentro per fare altro, per coprire le spese. Ma al di là di questo, resta il fatto che non è mai stato prescrittivo l'obbligo bene nei confronti delle assicurazioni, prima di devolvere al fondo dormiente, di una ricerca, di un'informativa di eventuali eredi. E quindi questo è un problema aggiuntivo anche rispetto alla comunicazione a indirizzo sbagliato che la vostra assicurazione vi ha dato. Seconda cosa, ci sono però sentenze che stanno arrivando negli anni. L'ultima, per esempio, è proprio l'ho trovata fine dicembre, 29 dicembre 2014, sentenza del Tribunale di Catanzaro. Ecco, e in questo caso il Tribunale di Catanzaro ha dato ragione a un ricorrente, e si trattava di l'assicurazione era BNL Vita, ed è stata condannata alla restituzione dell'importo dei primi versati sulla polizza. Era un giudizio d'appello di fronte a una sentenza di primo grado che invece era avversa e favorevole all'assicurazione, e era una polizza che era andata in prescrizione fuori dai termini del decreto legge del 2012, cioè nel 2010 e non nel 2009. Quindi la magistratura, sia pur non in numero così elevato, inizia a dar ragione ai ricorrenti. Allora, qui ci fermiamo un secondo per il racconto di questo problema, che mi rendo conto è un problema complesso, ma però che la dice lunga su chi ha il coltello dalla parte del manico, ecco, di fronte a eredi che non ne sanno nulla, ripeto, non che lasciano trascorrere il termine dei due anni senza esercitare il diritto di riscatto dei premi versati. La la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 16:48 primi 27 secondi. Abbiamo con noi un ascoltatore, Roberto Coscetti, che ci ha illustrato la condizione in cui si è trovato insieme ai suoi familiari per una polizza il cui premio era stato saldato inizialmente dal padre. Il padre e il compare loro non lo sanno e si trovano a essere oggetti del decreto che stringe a 2 anni i termini entro cui i familiari possono chiedere l'assicurazione, la restituzione del premio o di subentrare eventualmente con altre polizze, e abbiamo visto come nel tempo anche le finestre di riapertura del problema non hanno in realtà incluso tutti. Sentiamo alcuni di voi che ci hanno telefonato. Sentiamo innanzitutto Marco da Ancona. Prego Marco. Salve. Salve. Io volevo fare una suddivisione tra quelle che sono le polizze temporanee a caso morte, dove il premio pagato è un premio a rischio sostanzialmente, e in quel caso sì, ci potrebbe essere un problema di prescrizione se passano 2 anni, e io sono un agente d'assicurazioni, dal nostro canto è difficile a volte dover rintracciare una persona che è scomparsa, perché chiami al telefono, non ti risponde, mandi comunicazione, magari non ti risponde e tu non sai che è morto. Questo è un aspetto. Invece per le polizze dove il cliente versa un capitale sostanzialmente, sì, e lì il problema non siamo l'assicurazione che si prescrivono al diritto, il problema è che lo Stato si pappa il premio dormiente. Noi anzi abbiamo il dente avvelenato per cercare di trovare il cliente quando anche non risponde, per far sì che non avvenga questo, perché ovviamente ci dispiace che qualcuno si appropri dei soldi del cliente. No, io la ringrazio perché ha rispiegato che alla fine ecco la ragione della norma, cioè lo Stato, non l'integrale, perché come sa Marco poi comunque l'assicurazione trattenga una quota per costi di gestione bla bla bla bla bla, però insomma è lo Stato che dice me lo mangio, quindi una quota resta all'assicurazione e poi più va a questo fondo per il ristoro delle vittime delle frodi finanziarie. Mi scappa una risata da questo punto di vista, visto che è stato utilizzato e gestito dall'INPS quel fondo per altro, perché anno per anno, se andate a vedere le norme di legge di stabilità, troverete quel fondo indicato in un comma per cui si pigliano i soldi per fare altro. Francesco, dalla provincia di Grosseto, prego. Buonasera Oscar. Buonasera. Innanzitutto volevo dire una cosa, io prima sentivo la radio, lei urlava governo Lazzo. Stato ladro, no, governo no, io urlo Stato. Più. Stato ladro. questi signori, diciamo, inducono a chi ha il coraggio di farlo, chiaramente io no, a chi ha il coraggio di farlo, a truffare l'assicurazione, perché questa per me, anche se poi ci sono le leggi che stabiliscono, è una truffa ai danni del cittadino inerme che non conosce certi meccanismi, per cui rimane, come nel caso del signore con il quale lei prima ha parlato, Roberto, sì, Coscetti. Esatto, cioè è una cosa schifosa questa, veramente schifosa, e lei deve essere, una volta me lo sentivo sempre, lei urlava proprio governo ladro, lei non lo urla più. Se vuole, no, io urlo Stato ladro, perché non faccio distinzione tra il colore politico di quelli pro tempore, per così dire, perché mi sembra che sia un reato continuato. Anche in questo caso, appunto, il più dei soldi vanno allo Stato, per essere chiari, e ce l'ha ricordato il consulente assicurativo che è intervenuto. Sentiamo Mirko da Milano, prego Mirko. Pronto? Pronto, vada pure. Buongiorno Oscar. Buongiorno. Senta, sono telegrafico. Mia suocera aveva una polizza su una casa all'Elba. A un certo punto mia suocera è mancata. Noi abbiamo mandato la disdetta di questa polizza non 30 giorni prima, ma 20 giorni prima. Beh, in poche parole, l'assicurazione ci ha fatto quasi causa, il recupero crediti ci ha importunato 3 o 4 volte e noi abbiamo dovuto pagare la polizza. Ma la cosa più grave è che noi... Aspetti, non ho capito. La sua è deceduta. È deceduta, ecco. Per cui ad agosto, sì, al 6 d'agosto, scadeva questa polizza. Sì. Noi abbiamo mandato la disdetta della polizza al 20 di luglio, sì, dicendo che mia suocera era deceduta. Sì. E ci è arrivato un oltre, oltre le lettere di sollecito, anche il recupero crediti con degli addebiti. A un certo punto noi abbiamo mandato una raccomandata all'IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza, certo, delle Assicurazioni, però poi abbiamo pagato perché continuava a uscire, a uscire delle multe, no? Ma il vostro avvocato vi ha consigliato di pagare? Sì, anche perché ha detto rivolgetevi all'IVAS. L'IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza, a un certo punto ha risposto dicendo ma l'assicurazione che cosa dice? E l'assicurazione ha risposto che contemplava, che secondo l'assicurazione era giusto che noi dovessimo pagare. Per cui anche l'IVAS non ha dato assolutamente nessuna risposta. Se vuole io le posso dare. No, no, ma ci credo, sa, tutto questo genere di problemi deriva dal fatto che la polizza, cioè un tipo di contratti, e i contratti sono bagni, cioè sono obbligazioni contratte tra i firmatari. Il problema è che cosa succede quando uno dei firmatari muore. Questo è il punto. Come è ovvio, da un puro principio di disciplina di termini generali, uno dice non tocca a me, che sono la controparte di chi viene meno, occuparmi di trovare gli eredi, i subentranti, gli affini e i consanguinei. E questo in termini generali. Voi capite bene però che se si tratta a quel punto di farli sparire nelle tasche dello Stato e in percentuale quelle delle assicurazioni e di avere successivi interventi di legge che dichiarano di riaprire il problema e la finestra temporale e poi lo fanno con limiti così ristretti, insomma, la puzza di bruciato è lontana chilometri, almeno per quello che mi riguarda, si avverte da chilometri di distanza. Sono passati così tanti anni e guarda caso i soldi vanno in un fondo pubblico per ragioni ovviamente di finanza pubblica e le aperture di finestre sono ristrette perché per ragioni di finanza pubblica. Ho capito, però i diritti dei subentranti, che ripeto, in questo caso stiamo parlando di una famiglia che non sapeva della polizza, sono conclamatamente, secondo me, violati. Sentiamo Fabrizio da Bologna. Fabrizio, buonasera a lei e agli ascoltatori. Ma lei ha praticamente poi parlato adesso di quello che io volevo anticipare. In che senso? Ma nel senso che le assicurazioni non sono tenute a dare comunicazione agli eredi, anche perché io potrei cambiare idea, fare, per dire, un testamento e modificare anche quelli che sono gli estremi della polizza. Fabrizio, lei ha ragione, ma se lo Stato interviene dicendo invece che 10 anni diventano 2 e lo Stato poi se li piglia, lo Stato deve porre una tutela sui diritti di chi si trova in una forbice temporale così ristretta e magari senza saperlo. Questa è la mia idea. Poi si possono difendere le assicurazioni, ma questo è un problema. Continuate con la 24, appuntamento come a domani.